140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi questa settimana con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter, seguendo il nostro account ufficiale, chiocciola 140 caratteri R24, ma anche il mio account, chiocciola Marta Cagnola. Cinema e teatro nella nostra puntata di oggi di 140 caratteri. Cinemanteo, Milano. Fuggire in Amazzonia per capire chi siamo. È il viaggio di Un giorno devi andare di Giorgio Diritti. La protagonista, Augusta, è Jasmine Trinca. Io ho scelto a un certo punto di partire per questo viaggio più che per questo film, credo un po' più con incoscienza che con coraggio. Perché poi a ripensarci comunque la scelta è stata sofferta già all'epoca, però in effetti non so se è stata la cosa più giusta da fare, però in quel momento era la cosa giusta per me e quindi sono, come dire, è stata una grande fortuna averla. Spesso si parla di film al femminile, film in cui emerge l'immagine giusta, bella della donna, ma questa volta si parla di donne molto diverse tra loro e molto diverse da quelli che siamo abituati a vedere anche al cinema. Sì, e io la trovo una cosa davvero inedita e coraggiosa, cioè chi si mette a fare un film del genere per il cinema e in Italia, no? E in questo senso la scelta di Giorgio di parlare di quello che sente veramente di voler parlare e di cercare di farlo a tutti, no? In un modo abbastanza universale attraverso la figura femminile, a me mi tocca moltissimo, un po' perché come attrice, diciamo, soffro anche molto l'idea di non riuscire ad avere e a incontrare dei ruoli femminili così intensi, così significativi. E un po' proprio perché credo che nel femminile ci sia un messaggio di rigenerazione che va assolutamente in qualche modo proposto al di là di tutto il resto, no? Di tutto quello che siamo abituati a vedere nel bene e nel male sul femminile. Io sono scappata dal dolore e ovunque provi a guardare lì è dentro di me. Ti ha lasciato sua moglie perché non poteva più avere bambini. E lei doveva andare fino là nella foresta. Credo di non essere qui per dimostrare a me stessa che so vincere la paura. Sono qui per scoprire altri valori. Tu sei contenta se riesci a farli battezzare, sposare, confessare? Perché dobbiamo fargli fare delle cose che non capiscono? Ti sei trovata a incontrare non delle attrici, oppure in misura molto ridotta delle attrici, ma hai recitato con delle donne che non erano attrici, che erano loro stesse, che vivevano in un posto completamente diverso da quello in cui siamo abituati a vivere noi. E com'è stato l'incontro? Beh, con donne e con bambini. È stato un incontro stupefacente, perché c'è una forma di reale verginità rispetto anche al meccanismo dello spettacolo che davvero mi commuoveva, per cui tutte queste donne erano felici di partecipare a questo collettivo. Noi siamo arrivati anche prima nei villaggi indios e poi successivamente in quella che, diciamo, chiamiamo favela, con l'idea, insomma, di provare a proporre qualcosa. E anche se il cinema, appunto, era poco conosciuto dagli indios e ritenuto forse una sorta di invasione all'inizio dagli abitanti della favela, siamo stati accolti come una famiglia, con un'idea di ospitalità reale, di incontro tra persone che qui abbiamo completamente perduto. Hai citato i bambini, tu hai una bimba, com'è stato incontrare, beh, poi immagino per una mamma essere comunque lontana da casa e così tanto lontana, com'è stato trovare un'intesa con questi piccini che hai trovato lì? Ma appunto l'unica intesa che si può trovare è veramente cercare di parlare in un modo, come dire, talmente diretto e limpido, e questo tutti i bambini di tutto il mondo la vedono allo stesso modo, cioè non puoi imbrogliare. E quindi come non serve fare a mia figlia le vocette, le espressioni, perché lei sa cosa c'è dietro, con loro è stato fondamentale non starmi a preoccupare troppo del fatto che non ci capivamo parlandoci, ma che c'è un codice, no, che è universale per i bambini, che è quello di essere appunto semplici, trasparenti, autentici e di giocare. E questo è quello che io ho cercato di fare il più delle volte riuscendoci. Si osa confondere abbracciarci e di sempre amarci. A fuori, peggio non pensi. Se vuoi cambiare le cose, devi andare dove le cose bisogna cambiare. Un giorno senti che devi cambiare vita, che non puoi più stare dove stavi, che devi andare, devi essere, devi sperare. Come hai costruito il tuo ruolo e come ti sei incastonata in un universo con il tuo ruolo? Beh, il ruolo era sicuramente un personaggio in qualche modo ben descritto, già in fase di sceneggiatura. Io ho fatto un po' di studio, un po' di letture, perché non ho una formazione religiosa, e quindi capire che cos'è la fede per una giovane donna, qualcosa di così raro ormai, no? Almeno in Italia, mentre in Brasile è il quotidiano, cioè tutti veramente sono molto molto molto religiosi. Però per me, che non avevo una formazione, ad esempio, è stato soprattutto studio. Dopodiché tutto quello che abbiamo fatto lì è stare in ascolto e provare ad osservare quello che c'era, e l'incontro veramente con quello che arrivava, sia che fosse incontro umano, sia che fosse incontro, diciamo, con la natura e con tutte le sue espressioni di natura anche arrabbiata. Hai detto studio, hai dovuto studiare anche una lingua, non è una cosa da poco? No, ma quello, anzi, a me diverte moltissimo. Io poi ho studiato anche, a parte il francese, che poi l'ho imparato esclusivamente per fare dei film in Francia, ma ad esempio l'ebraico, cioè mi è capitato nella vita di, con molta fortuna, di andare in un sacco di posti e di imparare qualcosa di questi posti, no? E al di là dell'alfabeto e della lingua, quello che mi sembra fondamentale è proprio conoscere un posto. Naturalmente questo non può avvenire in 2 mesi, però sicuramente già dopo 2 mesi, se uno vive in un certo modo gli incontri e i luoghi, sicuramente riesce ad aggiungere qualcosa al proprio lavoro e alla propria vita, secondo me. Quando finisce un film non si è mai esattamente uguali a quando si è cominciato, qualcosa cambia, come in tutte le esperienze forti nella vita. A te in cosa ha cambiato questo film? Beh, sicuramente a me, che insomma già non ero una ragazza vezzosa, però l'incontro con l'essenziale ha sicuramente cambiato delle cose di percezione rispetto alla realtà, rispetto alla fortuna, rispetto alla gioia, anche rispetto al dolore. Ho ridimensionato il mio dolore, il mio posto anche nel mondo. E poi sicuramente c'è una memoria molto forte, visiva, sensoriale, che è qualcosa che adesso che sono tornata a casa non è andata via, però è rimasta lì, come dire, nel mio bagaglio pesante e leggero allo stesso tempo. Cinemanteo, Milano. Parla di Psicologia, la serie israeliana famosa nel mondo. Arriva da oggi su Sky Cinema la versione italiana di In Treatment. A dirigerla, Saverio Costanzo. No, è stato molto stimolante, perché le sceneggiature, un metro quadrato di sceneggiature, perché si tratta di 35 puntate, erano veramente scritte con cura, profondità, drammaturgia perfetta. Dunque il lavoro per me, il regista, come per gli attori anche, era molto facilitato da questa base così buona di partenza. Come ti sei comportato col format originale anche dal punto di vista registico? Cosa ci hai messo di tuo? Come hai interagito col format? Ma no, noi abbiamo rispettato il format in maniera molto precisa. Tutto quello che di nostro è venuto fuori è malgrado noi, nel senso che è chiaro, il tratto, anche se devi ricopiare un disegno, i colori sono gli stessi, il tratto della mano che poi dipinge sarà diverso. Allora, malgrado noi, sarà venuto come è venuto, qualcosa di diverso da quello che c'era prima, insomma. Il tratto è diverso, inevitabilmente anche i pennelli e i colori, perché hai un cast tutto tuo, ovviamente. Cast stupendo, eccezionale, di attori, secondo me, molto accademici, perché hanno un forte controllo del loro corpo, della loro voce, della loro gestualità, però anche molto capaci di dimenticare l'accademia e di farsi sorprendere da quello che accadeva poi in scena. Prima di cominciare ho bisogno di chiarire alcune questioni con voi. Cioè, cosa può succedere e cosa non può succedere in questa stanza? Secondo voi, che cosa vi sta succedendo? Beh, ci sta succedendo che abbiamo incominciato a venire in terapia, la cosa ci sta distruggendo. Lei non caga, non piscia, non le puzza mai l'alito. Non litiga mai con sua moglie. E non vorrebbe mai scoparsi una sua paziente. È stato tuo padre ad accompagnarti qui? Lei non mi ascolta. Abbiamo litigato. No, veramente hai detto che è con tua madre che hai litigato. Ah sì? E chi se ne frega? È un momento storico particolare, forse è sempre così un'alchimia strana quella che fa arrivare certi progetti e certi prodotti in un periodo particolare. Certo è che sembra paradossalmente un periodo perfetto per l'arrivo di questa serie. Beh, sì, sì, perché poi è cercare di capire in un contesto anche molto austero, in un, come dire, non c'è uno spreco di... È una serie molto, in questo senso, molto umile per come si presenta. Sono due persone che parlano intorno in un salone, dunque e poi permette di, secondo me, ascoltandola, guardandola e ascoltandola, anche di imparare l'arte dell'ascolto, cioè di riuscire a interagire col proprio ascolto, ecco, senza esagerare. Però è una serie davvero intelligente per come è scritta, questa qua. C'è stata proprio una dialettica costruttiva con col gruppo di Sky con cui abbiamo lavorato. In più il desiderio di fare qualcosa di bello e che fosse qualcosa di radicale anche nella sua bellezza, e che fosse un prodotto, anche se non è una parola molto bella, ma insomma che fosse qualcosa che potesse responsabilizzare lo spettatore, metterlo di fronte ad una attività e non a una passività, diciamo così. E mi sembra che loro siano proprio rivolti a fare questo tipo di televisione e questo tipo di linguaggio, a sperimentare e innovare il linguaggio, come succede ovunque nel mondo. Solo in Italia abbiamo, oppure in altri paesi, insomma, sottosviluppati, una televisione così poco ricca di idee. Parlo della fiction soprattutto. Sì, la fiction italiana è niente per me, non è... Io da spettatore ho un giudizio pessimo della fiction italiana. Non c'è scrittura, non c'è recitazione, non c'è messa in scena, non c'è niente. È una specie di tentativo di lobotomizzare lo spettatore stanco, ma non ha veramente niente, non ha futuro, è come vivere 50 anni fa, insomma. Il mondo è un'altra cosa. Io... E l'Italia invece in questo senso è un po' medievale. 140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Ritorniamo insieme con gli incontri, gli eventi protagonisti di una settimana di spettacoli. Li abbiamo seguiti tutti in tempo reale via Twitter, giorno per giorno, tra conferenze e presentazioni stampa. Il cinema nella seconda parte del nostro 140 caratteri. Cinema Apollo, Milano. Bianca come il latte, rossa come il sangue. Film con Filippo Scicchitano e Luca Argentero. Dal bestseller di Alessandro Davenia. Allora, ti dico, vederlo fuori dallo schermo è stato grandioso, perché ho visto una cinquantina di persone che lavoravano grazie a una piccola cosa, un piccolo sogno in cui avevo creduto e non avevo smesso di credere. Il vedere oggi, soprattutto dei giovani che riescono a lavorare per qualcosa in cui hai creduto, ti ripaga di tutto. Il vederlo sullo schermo ho visto poco, perché ho pianto come un bambino. Sono di lacrima facile, però questa storia, avendola scritta, risveglia, fa rivivere proprio in carne viva un episodio della mia vita che sta lì e che vedere sullo schermo amplifica. Ho scritto una lettera per Beatrice, dici che ne pensi? Nella vita nuova Dante celebra l'amore per Beatrice. All'inizio vuole conoscerla, cerca di avvicinarla, solo che è timido, si vergogna. È la forza stessa del suo amore che lo paralizza. Lei non sta uscendo? No, torno. Questa è una classe, non è il cesso di casa sua che regge quando vuole. Se fossi la reincarnazione di Dante? E se ti fossi solo rincoglionito? Cara Beatrice. Il cinema è anche facce, forse soprattutto facce. In questa storia c'erano le facce che tu ricordavi, le facce che ti sei immaginato e quindi hai scritto, probabilmente immaginandoti. E le facce invece che sono state trovate? Il lavoro di casting è stato una delle cose più lunghe della preparazione di questo film, proprio perché non si poteva sbagliare. Su una cosa sola ho avuto voce in capitolo. Mi hanno sottoposto i provini di alcuni ragazzi, quelli che erano rimasti alla fine, per fare il protagonista. Quando ho visto Filippo, che avevo già amato in Scialla, ho detto: questo è meglio del Leo che ho immaginato io. E nel film questo si vede. Su Luca non avevo dubbi e ho detto: voglio finalmente un attore che faccia un insegnante fiero di fare l'insegnante, non depresso. In questo momento, di attori bravi che abbiano un'energia da trasmettere, e poi siamo perfettamente coetanei, c'era lui, e quindi io ho detto magari fosse Argentero, e così è stato. Nella vita le basta una regola per tutti, però tu le puoi affrontare, te la forza ce l'hai. Ciao. Volevo fare tante cose, suonare la chitarra, viaggiare, ridere. Di mare, se potessi mantenere più promesse in cambio avere la certezza che le rose fioriranno. Quella è passione, l'amore è un'altra cosa. Cosa pretendi? Guarda che sono umano anch'io, cazzo! Il cinema può spingere ancora di più i ragazzi a leggere. Il cinema può dare una spinta in più su un pubblico di lettori che legge ancora meno. E siccome il linguaggio che i ragazzi oggi capiscono è innanzitutto il linguaggio delle emozioni, il cinema chiaramente si serve innanzitutto di questo. Però la cosa interessante è se a poco dal cuore noi riusciamo a risalire verso la testa, perché la debolezza a volte dei ragazzi di oggi è che sono tutti emozioni legati alla frammentarietà, alla rapidità della comunicazione di oggi, che è molto emotiva, e a volte per questo perdono la testa, non sanno più dove stanno i piedi su queste sabbie mobili. Lo faccio da più o meno 4 anni, serve scaricare la rabbia, capito? Però prometto che non infierisco. Guardi su? Sì. Dai, vieni. Che cazzo sono questi pugnetti? Dai! Chiudi la guardia! Non muovi le gambe! Sì, zitto un po'! Però hai ragione. Va bene, sfogarsi. E allora sfogati, Parlami. Cosa c'è con me? Ci hai preso gusto, si rifà al cinema? Guarda, è talmente bello che fino a che dura, perché interromperlo questo sogno? Ci sono già un po' di proposte per realizzare il secondo romanzo, cose che nessuno sa, che tra l'altro si presta a una storia cinematografica molto più che Bianca come il latte, Rossa come il sangue, e quindi staremo a vedere. Guarda, io sono come un bambino a cui vengono portati dei giochi nuovi, e quindi fino a che dura, che vada avanti così, sono contento. Quando finirà continuerò a fare quello che sto facendo e che ho continuato a fare, stare in classe, perché poi ci sono sogni molto più faticosi e quotidiani, ma che ti ripagano molto di più di un film, che sono i ragazzi in carne e ossa. Ti avranno chiesto di Argentero. Sì, guarda, lì io lo raccontavo che Luca è venuto un giorno in classe, perché viviamo tutto come un'avventura comune. Io non sono mai diventato un VIP per i miei alunni, perché mi vedono ogni giorno, sanno i miei difetti, i miei punti deboli, e l'abbiamo vissuto insieme. I ragazzi che io quest'anno porto alla maturità sono i primi che hanno letto Bianca come il latte, Rossa come il sangue, quando era solo un blocco di fogli stampati al computer. E 2 mesi dopo io li interrogherò all'esame di maturità, ma 2 mesi prima siamo in sala a vedere insieme il film. Cinema Odeon, Milano. Fondi europei per coppie di fatto, due amici si fingono gay in outing, fidanzati per sbaglio. Insieme ad Andrea Bosca, il protagonista del film è Nicolas Vaporidis. Sono entrato nella fase embrionale del progetto, praticamente la prima stesura della sceneggiatura, e di lì abbiamo lavorato moltissimo, fino ad arrivare, credo, undicesimo draft. Quello poi è il copione che abbiamo portato in scena, per cui per 10 volte l'abbiamo cambiato, modificato e ci abbiamo lavorato sopra, e mi sono divertito a lavorare con loro, a fare questo personaggio, a raccontare una storia che è una provocazione scorretta, scorrettissima, cosa che adoro, in un'Italia scorretta, per cui raccontiamo due personaggi che devono per forza in qualche modo arrangiarsi e adattarsi al sistema, per cui per arrangiarsi intendo che vivono una condizione di precarietà assoluta, malgrado entrambi abbiano un talento indiscusso nel fare, soprattutto uno, quello, il personaggio di Andrea Bosca, nel fare quello che fa. L'altro, il mio invece rimane, vive una condizione, corre sul filo di lana tra la precarietà del dover crescere un fratellino piccolo da solo perché ha perso i genitori e la voglia di riscattarsi e di avere un lavoro dignitoso che possa rendere felice lui per primo, ma poi anche le persone intorno a lui. E però sono costretti nell'Italia di oggi, immaginifica in realtà, perché noi mettiamo in scena un bando di concorso della Regione Puglia per delle coppie di fatto. Credo addirittura impensabile se non vietato per legge, per cui in questa nostra Italia immaginaria noi accediamo a questo concorso e quando purtroppo capiamo che è riservato solo a coppie di fatto, tralasciamo questo piccolo dettagliuccio, siamo costretti a dover scegliere tra mollare tutto, perdere e comprometterci completamente e quindi andare letteralmente in bancarotta, finire in mezzo a una strada, oppure fingere. Vogliamo ridere dell'Italia di oggi, ridere dei nostri difetti e chiedere e fare la domanda: è questo quello che vogliamo dal nostro paese? O c'è di più? Tra 20 giorni esame con colloquio atto a verificare la natura del vostro rapporto. E che rapporto, scusi? Di coppia. Di coppia di imprenditori. Di giovani. Di omosessuali. Che cazzo hai fatto? Io ti ammazzo. Oh! Fingerete? Sono 20 anni che fingo di essere eterosessuale? Per un mese potete fingere anche voi, no? Mai. C'è anche il problema dei trentenni, in questo film sono trentenni ma potrebbero essere ventenni o quarantenni, perché ai noi il problema è molto più ampio, tra poche speranze, mancanza di lavoro, necessità, bisogna arrabattarsi un po'. Ma è questo il problema nostro, è che viviamo ancora con quella consapevolezza che in Italia ce la fai se sei furbo, anzi furbetto. Questo essere furbo non ci ha portato lontani, anzi a mio avviso ci ha messo in una condizione disperata, una condizione di inferiorità rispetto agli altri paesi d'Europa, senza andare troppo lontano, per cui anche a livello di diritti civili, a livello di opportunità, noi siamo diventati un paese deriso, un paese dove i furbetti, dove i festini, dove il politico in piccino, dove l'amministratore delegato paraculo, dove il farmacista che ruba, dove c'è il medico che fa le prescrizioni pur non dovendo e potendo. Siamo un paese dove Striscia la Notizia o le Iene potrebbero campare per altri 100 anni con un successo mostruoso. Tante sono le porcherie che commettiamo, ma porcherie stupide. Dall'altra parte ci sarà sempre un onesto che fa la figura dell'imbecille che paga. E un onesto a fare l'imbecille per tutta la vita si scoccia. Quando si è rotto le palle di fare l'onesto che paga e il sopruso del furbettino di turno che salta la fila, diventa automaticamente anche lui parte del sistema, perché è costretto. Oppure se ne va. Oppure, come stiamo facendo oggi, che io trovo meraviglioso, un evento storico, ci ribelliamo, ma ci ribelliamo veramente. Ribellarsi vuol dire dirlo, dire tutto ciò che non va, mettere nero su bianco tutte le porcherie che vengono perpetrate ai danni di chi invece è onesto. E tutto questo va fermato, va bloccato, va fermato gridandolo, va fermato scendendo in piazza, va fermato combattendo contro se vogliamo essere un paese moderno, altrimenti rimarremo nel nostro piccolo microcosmo fatto di furbetti, di paraculi che hanno portato l'Italia alla disperazione, dove pochi stanno bene a discapito di tanti che stanno male. È un discorso generazionale. Vogliamo essere migliori e vogliamo che l'Italia diventi il paese dove andare, o vogliamo continuare ad essere l'Italia dove gli italiani scappano? Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri. Continuate a seguirci ogni giorno seguendo il nostro account ufficiale @140caratteriR24, ma anche il mio account @MartaCagnola. 140 caratteri torna ogni domenica alle 8:30 e alle 19:30.